Giallo e nero di Daniele Biacchessi. 2 agosto 1980. La stazione di Bologna è invasa da migliaia di persone. Sergio Secci ha 24 anni. La sera prima telefona ai suoi genitori, Torquato e Lidia. Ha la voce tranquilla, distesa, calma, ma quel giorno non riesce a prendere il treno. Uno stupido ritardo di pochi minuti. Si reca all'ufficio informazioni e scopre che un altro convoglio sta per arrivare. È annunciato alle 10.50. Sergio Secci attende la sua coincidenza. Anche Roberto Procelli è a Bologna. Viene da San Leo di Anghiari, in provincia di Arezzo. È partito soldato, 121esimo battaglione di artiglieria. E ora si trova lì, a Bologna, sotto la pensilina, ad aspettare il suo treno di ritorno. Si mette sotto il vecchio orologio della stazione. Lancette che segnano il tempo, treni in arrivo e nuove partenze. Sergio Secci e Roberto Procelli possono osservare quel fiume di gente, di treni in transito che si intersecano lungo binari affollati, di grida di venditori di panini e bibite. Le carrozze sono stipate fino all'inverosimile. Enormi valigie passano dentro a pochi centimetri di finestrini aperti. In biglietteria c'è una coda che non si vedeva da tempo. I bambini non conoscono le regole degli adulti. Figuriamoci in una stazione d'agosto e in mezzo a quel chiasso è come sentirli. Scappano, si nascondono, poi si riprendono e si rincorrono. Una danza che può andare avanti fino all'infinito. I genitori non riescono proprio a tranquillizzarli. Ci sono i fratelli danesi Eckhard, 14 anni, e Kai Mader, 8 anni, un bambinone dalla faccia tonda. Margrethe Mader, 39 anni, è la loro madre. I bambini corrono senza sosta. Nazareno Basso infila una mano in tasca e prende una ventina di gettoni. Si appoggia alla cabina telefonica che si trova accanto al ristorante Cigar. Sono le 10.23. Compone il prefisso di Venezia, lentamente. I bambini corrono più forte, le 10.24. Roberto Procelli sta uscendo dalla stazione verso Piazzale Medaglia d'Oro e a 2 passi dalla cabina telefonica. Sul treno fermo al binario 1 le persone si sporgono dai finestrini. Qualcuno fuma una sigaretta, altri parlano negli scompartimenti, si sente un boato. L'orologio segna le 10.25. GR1, edizione straordinaria. Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. 25 kg di esplosivo gelatinato Compound B, di tipo militare, compresso in una valigia, distrugge la stazione di Bologna. Disintegra centinaia di metri cubi di terra, travi lunghe 200 metri, pensiline in acciaio, traversine, sassi, binari, blocchi di cemento armato, 2 carrozze del treno straordinario 13534 Ancona Basilea, il ristorante Cigar. ...85 morti e 200 feriti. Una stazione si è sbriciolata come fanno quei castelli di sabbia quando c'è l'alta marea. Eppure il Ministero dell'Interno e i servizi segreti fanno circolare la notizia che l'esplosione non è stata causata da una bomba, bensì dallo scoppio di una caldaia. E c'è anche chi avvalora le tesi, come il GR1. Hai parlato di bomba e devo smentire, almeno parzialmente, perché sta prendendo sempre più credito invece da un primo esame dell'epicentro dell'esplosione, adesso che molte macerie sono state rimosse, l'ipotesi che sia invece scoppiata una caldaia dell'acqua calda posta nel seminterrato del ristorante, che è andato praticamente distrutto. Solo molte ore più tardi la matrice terroristica dell'attentato di Bologna sarà ammessa dagli organi di informazione istituzionale. GR1 Flash, ottava edizione. Bologna. Man mano che le ore trascorrono dalla spaventosa esplosione che stamattina alle 10.25 ha devastato la stazione ferroviaria uccidendo 76 persone, l'ipotesi dell'origine dolosa del disastro si fa più concreta. Inizialmente si era pensato allo scoppio della caldaia che alimenta la centrale termica, oppure di quella che serve la cucina del ristorante, ma i primi sopralluoghi hanno stabilito che sono intatte. Come sembra siano state trovate intatte le bombole di gas liquido in uso nella cucina della tavola calda, né sono state trovate falle nelle tubature del gas. Il comandante dei Vigili del Fuoco, ingegner San Giorgi, afferma che qualcosa di concreto e attendibile potrà essere detto solo quando si arriverà al luogo dell'esplosione, ancora sepolto sotto le macerie. Sembra comunque che l'epicentro dello scoppio sia stata la sala di attesa della seconda classe. Vigili urbani, vigili del fuoco, tecnici del comune, primari di ospedale, taxisti, conducenti di autobus. Tutti si ricordano molto bene quel 2 agosto 1980. Come tutti i giorni mi alzavo alle 6, 5 e mezza, 6, e anche quel mattino alla stessa ora, ma con un pensiero diverso, perché terminato il mio lavoro quotidiano sarei partito per le ferie. Perciò me ne andai a lavorare anche più contento degli altri giorni. Come al solito alle 6.30 c'è la sveglia per tutti e iniziano i lavori quotidiani di una caserma come tutte le altre. Era un giorno d'estate, uno di quei giorni belli, caldi, in cui ci sono pochi al mare, ma ero impegnato nella ricerca di una soluzione, perché da tempo Bologna aveva dei grossi problemi, erano sorti numerosi problemi rispetto al coordinamento dei mezzi di soccorso. Io ero controllore allora, era un turno di servizio alla cabina in centro, in Piazza Maggiore, invece cambiai turno con un collega per esigenze mie personali, che avevo bisogno di andare in giro. Quella mattina era piuttosto tranquilla, tanto che mi allontanai dagli ambulatori per arrivare sulla rampa e godermi le persone che passavano per via Massarenti. Ho caricato una signora anziana con un bambino di circa 6 o 7 anni e l'ho portati alla stazione. Mi trovavo in stazione perché avevo fatto il turno di notte in ospedale come assistente chirurgo e essendo piuttosto stanco ho deciso di utilizzare il treno per andare a Riccione a trovare la famiglia. Ero nel cortile di casa che stendevo dei panni con la mia vicina di casa, in abiti molto leggeri, era molto caldo e stendevamo, però parlavamo dell'Italicus e dicevamo pensosamente quello che avevamo di sentimento. Io ero contento perché la giornata era molto bella, molto calda, il comandante andava in ferie proprio quella mattina, partiva verso proprio le 10 e quindi mi trovai con il dottor Santarsiere, che era di guardia allora, tecnico di servizio, al bar come al solito verso le 8:30, 9, e poi andammo a vedere al centralino gli interventi della notte e stavamo parlando del più del meno mentre salutavamo anche il comandante che partiva per le ferie. Sono venuto qua nella sede della Cotabo intorno alle ore 8 di mattina ed eravamo in fase di trasloco perché parte della cooperativa veniva via da via Marconi e si trasferiva qui via Stalingrado. Ricordo il gran caldo di quella mattina, nel senso che smontavo dalla guardia, avevamo fatto un turno pesante durante la notte e normalmente il nostro turno di lavoro prevedeva che verso le 10, 10:30 chi aveva fatto la guardia andava a casa. Oltretutto io avevo la famiglia al mare. E quindi con un collega, ricordo proprio esattamente, si parlava a chi doveva rimanere, diciamo, ancora un po' per continuare a fare quelle che erano le attività della giornata. Anche Paolo Bolognesi, ora presidente dell'associazione 2 Agosto, sta raggiungendo in quel momento la stazione di Bologna. Io stavo tornando dalla Svizzera in treno con mia moglie, perché mia moglie era stata a fare un intervento a Basilea, e pertanto mi trovavo in treno e stavo per raggiungere Bologna per poter riabbracciare i miei cari che mi stavano aspettando. Ecco. Dunque, innanzitutto siamo arrivati alla stazione di Bologna con molto ritardo dovuto all'attentato che era successo. Quando siamo arrivati dovevano esserci quattro persone ad attenderci, invece non c'era nessuno. Pertanto tramite con i fattini siamo riusciti poi a prendere un taxi e tornare a casa. E da lì è cominciata tutta una ricerca per vedere dove erano finiti i nostri parenti. Scoprimmo che uno era morto e gli altri tre erano rimasti feriti gravemente. Ecco. Mio figlio è rimasto ferito gravemente, era all'ospedale, tra l'altro non riusciva più a pronunciare il cognome, aveva 6 anni. E lo shock, fatto sta che c'erano le radio private che stavano dicendo c'è un bambino che si chiama Marco, ma non si conosce il cognome, eccetera. Io andai all'ospedale e lo riconobbi da una voglia che aveva sulla pancia, perciò tanto per dare un'idea di come poteva essere ridotto. Ecco. Dopo la pausa torna il giallo-nero sulla strage alla stazione di Bologna. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. 2 agosto 1980. Bologna e l'Italia sono colpite al cuore, ma parte fin da subito la macchina dei soccorsi. Una bombola d'ossigeno, urgente! I ponti radio sono sempre accesi e molti li utilizzano intorno alle 10:25 del 2 agosto. Sono i ponti delle ambulanze, taxisti, normali cittadini. Questa è la testimonianza sonora inedita di ciò che viene registrato proprio in quelle ore. Niente, ho sentito della generazione della stazione, e allora mi sono messo in ascolto, ho sentito la tua modulazione e mi sono permesso di intervenire. E se hai bisogno posso tenermi a tua disposizione. Senti Barzelletta, se hai qualche amico abilitato a guidare delle Croce Rosse, mandalo immediatamente alla centrale, che ci sono ancora delle macchine disponibili. Occorre plasma al San Forcero all'ospedale maggiore, dammi Roger. Di quale qualità? C'è qualche cosa? Intervenire perché io sono partito per Rovigo e non so quando rientro, perché se lei ha saputo la notizia sono morti anche dei miei colleghi di tabacco, di taxisti. Ok, se fai questo favore, vai. Prego, madre Arcos, urgente. Urgente, un taxi. Chi è che? C'è un suo amico nel taxi? No, mi lascio l'antenna libera. Con il buongiorno, sono qua a Barzelletta. Tu mi hai chiesto se ho degli amici per guidare le ambulanze. Guarda, io non so se posso essere in grado, io sono parecchio alla guida, anche con i furgoni. Mi hanno detto che ci sono molti feriti. Da lontano si intravedono uomini in divisa rossa, vigili del fuoco, volontari, soldati, carabinieri, poliziotti, gente comune. Arrivano i mezzi di soccorso, le scale, le pale. Ogni cosa serve a ritrovare i superstiti. I vigili del fuoco dirottano sulla stazione di Bologna l'autobus numero 37, che si trasforma in un carro funebre. Lei è un tranviere, vero? Sì. Ci sarebbe da guidare quell'autobus per andare a camera mortuaria, ed era questo autobus che io sono rimasto pietrificato. L'attimo che ho avuto, quei 3-4 secondi, mica potevo dirgli di no, un collega, un amico, mi fa: Renato, lascia stare, ci vado io. Salì su quell'autobus e cominciai a fare il tragitto che mi portava dalla stazione fino all'obitorio di Via Ernerio. E tutto questo per ripetute volte. E questo bus terribile, pieno di corpi straziati, andò direttamente all'istituto di medicina legale. Il numero dei deceduti era superiore alla media giornaliera del resto dell'anno, quindi non c'erano più disponibilità di celle frigorifere nelle camere mortuarie degli ospedali, neppure alla medicina legale. Io dovevo montare in servizio alle 13:30, mi sono presentata circa 12:30, 12:15, immediatamente mi hanno fatto mettere in divisa. Mio marito ha detto: andiamo come volontari, andremo in Borghese, ma certamente hanno bisogno di noi. Ci spostiamo prima sul marciapiede del primo binario, poi a un certo punto qualcuno chiama: qua ce ne abbiamo trovato una ragazza che è ancora viva. La ragazza era in una posizione che era difficilmente visibile perché era a bocconi sulla scrivania, in quanto dava le spalle al punto dove c'era stata l'esplosione? Era negli uffici della dove c'era la CAM, sopra la pensilina, c'era una pensilina in metallo. Per te che in quel momento si doveva dare anche precedenza a questa persona per la posizione dove si trovava. Mi arrampico lì sopra e cominciamo con un ufficiale medico. E mi arrampicai alla meglio peggio per arrivare in questo punto e vidi appunto questa ragazza. E cominciamo a scavare. Dava sì segni di vita ma non parlava, le mani erano lunghi, i fianchi ma bloccati, lei era a boccone chinata sulla scrivania in una posizione obbligata. E viene fuori questa ragazza viva, e poi mi sembra che sia anche sopravvissuta con conseguenze minime, per fortuna. Bisognava sgomberare le macerie. Ma rivolgo informazioni che il materiale doveva essere portato nella caserma del Genio in via Gucchi. Nel pomeriggio il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, raggiunge Bologna in elicottero e si precipita subito all'ospedale Maggiore, dove è allestita una delle tre camere mortuarie. Non ci sono parole che possono esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate, no? Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma due stanno morendo ormai, una bambina e un bambino, una cosa straziante. Il 4 agosto 1980, l'allora ministro dell'interno Francesco Cossiga riferisce in Senato. Il 25 del 2 agosto si è verificata nella stazione centrale di Bologna una violentissima esplosione che ha distrutto parte del lato ovest degli edifici del complesso ferroviario. Il numero delle vittime in conseguenza dell'esplosione risultava alle ore 10 di questa mattina di 75. Le salme fino a quell'ora identificate erano 66. I feriti ricoverati negli ospedali erano 109, 17 dei quali in gravi condizioni. Tra queste, le vittime di nazionalità straniera erano 7 e 19 i feriti. Subito dopo l'esplosione sono scattate con grande tempestività le operazioni di soccorso coordinate dalla prefettura, nella quale sono state impegnate tutte le forze di polizia e dei vigili del fuoco di stanza nella città, coadiuvate dalla Polizia Municipale di Bologna e degli altri comuni vicini, da personale delle ferrovie, dei servizi tecnici dell'Enel, dei telefoni, dei servizi municipalizzati, nonché da numerosissimi volontari appartenenti all'associazione di assistenza e anche da semplici privati cittadini. Constatata la gravità del disastro, sono state fatte affluire sul posto squadre di staccamenti volontari, squadre dei vigili del fuoco della provincia di Bologna, personale dei comandi provinciali di Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì, Ferrara, Firenze e reparti militari. L'opera dei soccorritori si è diretta immediatamente a prestare assistenza ai feriti, curando il trasporto negli ospedali cittadini ed a rimuovere le macerie secondo le più appropriate modalità al fine di tentare il salvataggio delle persone in vita che potessero essere sepolte sotto di esse. Questi lavori si sono protratti fino a notte inoltrata e con precisione fino alle ore 1.30 del giorno successivo, quando cioè è stata estratta dalle macerie l'ultima vittima dell'immane tragedia. È lungo ed intricato l'iter giudiziario per la strage alla stazione di Bologna. Il 19 gennaio 1987 inizia il processo. La sentenza viene emessa l'11 luglio 1988. Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, neofascisti dei NAR, sono ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Poi ci sono le persone condannate per depistaggio. Licio Gelli, il gran maestro della loggia massonica P2, il generale Pietro Musumeci e il colonnello Giuseppe Belmonte sono alti ufficiali del SISMI, il servizio segreto militare. Il processo d'appello inizia nell'ottobre 89. La sentenza fu emessa il 18 luglio 1990. Tutti assolti. Il 12 febbraio 1992 le sezioni unite penali della Corte di Cassazione annullano il verdetto d'appello. Nel 1993 il secondo appello conferma la sentenza di primo grado. Il 22 novembre inizia il processo in Cassazione. La sentenza viene emessa il 23 novembre 95. tutti colpevoli. Per i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna sono stati lunghi anni di dolore, di sofferenza, di processi e di depistaggi gravi. Paolo Bolognesi, Associazione 2 Agosto. I familiari delle vittime da quel momento hanno cominciato ad avere una situazione piuttosto delicata. Prima, naturalmente, tutto l'aspetto della cura ai propri cari e poi quello che è stato invece il discorso del processo. E anche qui la cosa è stata molto, molto drammatica e molto sofferta, anche perché da un avvio veloce delle indagini, dopo le indagini hanno cominciato a rallentarsi e verso la fine dell'anno praticamente i giudici erano praticamente senza nulla di fatto per poter andare avanti. Ecco. In questo processo per la strage ci sono stati veramente un utilizzo dei depistaggi da parte degli apparati dello Stato pesantissimo. Hanno inventato piste di tutti i tipi per fare andare all'estero i magistrati, hanno inventato piste su piste e depistaggi pesantissimi. Cioè, praticamente sulla strage di Bologna c'è stata la somma del depistaggio di tutto quello che era stato fatto in precedenza e in più ci sono state delle novità assolute, come il collocare una bomba sul treno Taranto-Milano, bomba uguale, con l'esplosivo uguale a quella della strage, ecco, pertanto già lì il fatto di avere in anteprima la qualità dell'esplosivo che era stata messa sulla strage e averne messo di uguale composizione all'interno del treno, anche questo è un fatto importante che fa riflettere, e l'altro aspetto, tutto questo serviva per portare le indagini all'estero, sviare comunque sia dai veri colpevoli le indagini stesse. Nel momento in cui si è cominciati a risalire dai depistaggi a chi faceva queste cose, ecco che da quel momento questi depistaggi sono diventati a un certo punto delle prove che hanno permesso di arrivare naturalmente prima ai depistatori e poi a comprendere anche il nesso del perché venivano fatti questi depistaggi, cioè venivano fatti per evitare la giusta condanna a Mambro e Fioravanti, i due killer spietati che sono gli esecutori materiali della strage. Ecco. Li ho visti quei volti di gente comune nella sala d'aspetto della stazione di Bologna il 2 agosto del 1980. Loro aspettavano un treno. Io lo avrei preso poco dopo. Li ho visti Sergio, Roberto, Nazareno e tutti gli altri leggere un libro, guardare l'orologio, bere un caffè, scrivere sopra fogli di carta, parlarsi, amarsi. Io li ho visti nel loro ultimo soffio di vita. Per questo quei volti non potrò mai dimenticarli. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.